E ben ritrovati, 451 frammenti sonori, beh, senza soluzione di continuità rispetto alla sigla. Abbiamo voluto immediatamente far partire, ho voluto, visto che insomma sono in solitaria, Max Machi appunto da 451 frammenti sonori, con ancora gli auguri ovviamente chi mi ha preceduto per la bella trasmissione, la 200ª tra l'altro, e un omaggio che non poteva mancare da queste parti per Mark Smith, per i Fall, per quell'incredibile percorso che è stato appunto quello del grande post-punker e non solo inglese, che è arrivato insomma fino ai nostri giorni facendo musica incredibile, partendo appunto poi da una retroterra decisamente punk, creando quel suono che poi diventerà, soprattutto grazie anche alla Bibbia, potremmo dire, del post-punk appunto di Simon Reynolds, post-punk, proprio quello è il titolo, e quindi quel suono verrà definito in maniera conclusa, ecco, per molti aspetti proprio post-punk. Si parlava, insomma, si è sempre parlato per New Wave finché Simon Reynolds appunto non è stato molto chiaro su questo. Questo lo sottolineo perché Reynolds dà anche a Mark Smith quello che è di Mark Smith, proprio con la creazione di quel suono, insieme chiaramente a Johnny Rotten, che diventava John Lydon, quindi da Sex Pistols si passava a Public Image Limited, quello che è stato il percorso di Peter Hook appunto, e Joy Division, Ian Curtis, eccetera, e quello che poi si trasformerà in un suono che appunto è stato definito così, in termini molto ondivaghi, scusate il giochino di parole, New Wave, no? Proprio la nuova onda, dove appunto si raccoglieva veramente di tutto. Il suono post-punk ha una caratteristica che appunto mai come altri generi probabilmente è precisa nella definizione post-punk, suono punk che però appunto viene o decostruito ulteriormente, però con quello che sono i linguaggi delle avanguardie, addirittura delle avanguardie elettroniche, anche per qualcuno, potremmo ricordare, che ne so, It Is It, per dirne uno su tutto, ma non solo, ecco, tanti ne passano da queste parti a 451 frammenti sonori. E invece chi è riuscito a fare forse quello che il punk non c'era riuscito parzialmente, e quello di far diventare il rock and roll nuova musica, tra virgolette, ma neanche tanto, visto che insomma Mark Smith le ha tolte spesso anche queste virgolette, qualcheduno poi le ha volute mettere cercando di infighettire, e l'impossibile Mark Smith rimane, come dire, dentro un'immagine piuttosto graffiante, sempre legato a quello che è comunque una musica diretta, ma che non perde, pur recuperando il rock and roll e decostruendola anche per tanti versi senza intellettualismi, ma con la capacità intellettuale, quella sì, perché insomma se no non si capirebbe perché per 40 anni ha fatto musica incredibilmente anche innovativa nell'ambito del rock, e così utilizziamo un, come dire, un genere ancora più a monte, no? Oppure un'attitudine, anche questo insomma Reynolds lo spiega molto bene nel libro, come tanto poi del post-punk sia in realtà anti-rock ma rock and roll, anche questo insomma ci porterebbe a approfondire la cosa, ma insomma questioni temporali, anche se è centrale per capire un passaggio fondamentale della storia della musica, tra l'altro uno dei passaggi che ancora rimangono assolutamente centrali per musiche anche odierne, se non magari con il suono diretto del post-punk, ma c'è anche quello, come senz'altro c'è un'attitudine, un'attitudine appunto graffiante, un'attitudine che se vogliamo iconoclasta, cattiva, che attraversa buona parte insomma delle musiche che soprattutto 451 sperimenta insomma insieme a voi, ma probabilmente non ci sarebbero state tante formazioni, ne cito una su tante, su tutte insomma potrebbe essere quella dei Pansonic ad esempio, con veramente tanto rimando a quello che è stato il post-punk e anche quello che è anticipato in una sorta di qual misura poi le mosse del post-punk, Throbbing Gristle in primis, e quel suono che attraversò anche molti Joy Division, ma perché no anche alcuni Fall più sperimentali, più se vogliamo più aperti rispetto a quello che potevano essere delle possibilità musicali che in nuce ci sono sempre state, oppure venivano direttamente fatte esplodere da pezzi incredibili come abbiamo tra l'altro titolato questa sera la trasmissione Fantastic Life. Beh, poi d'altronde sono giornate anche dove inevitabilmente mi è tornato in mente Mark Smith, ci ha lasciato pochi mesi fa, proprio perché insomma stiamo vivendo veramente una vita fantastica, Fantastic Life, con quella sorta di ironia che diventava anche sarcasmo, che Mark Smith è riuscito a mettere in musica, nei testi, in un'attitudine assolutamente riconoscibile e che veramente mi ha informato fior fior di generazioni e anche in un certo qual modo non riformato ma rivoluzionato in questo senso gli stessi Fall, un atteggiamento che sembrava un'immobilità e poi in realtà un moto perpetuo, potremmo dire, cambiando sempre, poi in realtà è rimasto poi sempre Mark Smith, probabilmente è l'unica strada possibile per continuare insomma a sperimentare in questo senso. E il lascito del grande Mark Smith appunto è veramente infinito, ecco, e sicuramente appunto non termina qua, è fuori dai tempo nel senso appunto di indeterminato in maniera però appunto decisamente creativa rispetto a quello che sarà molte delle musiche da qua al futuro, al Fantastic Life che tendenzialmente insomma da qualche anno direi ci aspetta, forse da decenni, ecco, una Fantastic Life. Continuiamo con un progetto misconosciuto, Tuff Thread, da Brescia, product, disco assemblato nel 2015, un gruppo bresciano di cui si trovano veramente pochissime notizie, con un orgoglio deciso nel toccare appena quello che è stato un suono urticante come appunto quello di Mark Smith, come quello del post-punk, e dichiarando appunto questo come orgogliosamente anche come un suono proprio post-punk ruvido, graffiante, con appunto uno spirito vitale veramente incredibile, la contestazione che passa, che viene canalizzata attraverso musiche di grande, per certi versi sublime anche impatto, se non ci fosse poi in realtà anche il fatto proprio di desublimare e di rendere anche decisamente brutista anche brutalizzare anche quello che è appunto la realtà, in questo senso insomma il graffio rimane anche maggior ragione con una ristampa appunto di lavori di questo gruppo Tuff Thread di appunto Brescia, come vi dicevo prima, che ha raccolto questo materiale decisamente ruvido dentro questo product. Thank you. Beh, misconosciuti, ma veramente con un degno, una degna sottolineatura post-punk, ecco, non è un caso, insomma, che nelle note, a parte mettere nomi che, insomma, forse loro conoscono, Jay Vinil, Steve Lori e Mergy, non si recupera nient'altro, insomma, tranne che ristampato, o forse stampato per la prima volta, raccogliendo materiale dall'80 all'82, e assolutamente lo fai, ma con un suono di una potenza che tra l'altro viene sviluppata anche proprio dalla capacità quasi animale, potremmo dire, di utilizzare il lo-fi. Adesso potremmo definirlo tale, un utilizzo, in realtà, appunto, prima in quegli anni lì veniva come dire naturale, appunto, in maniera quasi istintiva, animalesca, portarsi appunto a un impatto tale da far uscire musiche che avevano dentro se stesse poi tanto di musiche che poi saranno definite industrial, molto di un suono decostruito, se vogliamo, proprio su un giro rock and roll, ma il rock and roll come appunto poteva essere inteso da sorta di miraggi, distopie, o forse anche previsioni, anche per tanti aspetti di catastrofi, non solo musicali, ma in termini sociali, e anche con poi visionarietà che porteranno anche così a aspettare proprio la fine del mondo, da Pere Ubo a Killing Joke, ma tantissimi. Cioè, c'è un immaginario, appunto, da apocalittico fortissimo, che riesce anche proprio a generare questo suono che è assolutamente di quel periodo storico, e con questa urgenza che poteva essere soltanto, appunto, di quel momento, con quella, appunto, coscienza e appunto il momento di grande cambiamento che stava avvenendo, con appunto la coscienza di quello, insomma, c'era ben presente, ecco, perlomeno in termini di capacità di cogliere quel cazzo che sarebbe arrivato con Reagan e con la Thatcher, ecco, e quindi capire poi il futuro, in fondo è poi anche questo, sentirlo, odorarlo e andare a vedere quelle che sono le tendenze. Non è nessun Nostradamus, ecco, che va a interpretare, e quello che, insomma, tanti post-wavers, post-punker cercano, appunto, magari di ricreare il suono, ma ovviamente non è possibile se non si ha quell'impatto, ecco, come dicevo prima, rispetto alle musiche, rispetto a quello che si vive. Poi anche sul blog, tra l'altro, di 451 frammenti sonori, e anche su come si chiama quel social, mi pare Facebook, e trovate una foto di Marky Smith, e lì potrebbe sembrare veramente antipolitico, forse lo è anche, ma politicamente, cioè, è paradossale, ma si nutrono e si nutrivano proprio di questo, e anche di questi paradossi, appunto, musiche che inevitabilmente poi hanno un impatto e hanno avuto un grandissimo impatto in termini, appunto, di linguaggio, di decostruzione, quindi hanno preso un aspetto volontariamente o involontariamente, ecco, e quell'involontarietà magari è data anche da un atteggiamento di chiusura. Public Image Limited, ricordiamo, veramente, probabilmente anche veramente il vaffanculo inteso come possibilità, come fatto, insomma, non più la prova, ma il fatto, insomma, che si potesse, appunto, arrivare a queste forme di chiusura, ma creando, anche qua sembra una sorta di paradosso, circuito chiuso. In realtà i circuiti chiusi verranno anche utilizzati anche in termini musicali, quindi e l'eccezionalità, insomma, quel periodo di questo piccolo omaggio, insomma, che stiamo facendo al periodo, insomma, di Mark e Smith, qua 451, è proprio questo, questa eccezionalità tra le tante altre, ovviamente, che sono riusciti a esprimere in termini estetici, eccetera, in termini di, appunto, immaginari, che si sono, insomma, moltiplicati, magari anche, appunto, cambiando, insomma, di forma, ma sostanzialmente, ecco, rimane, come dire, quell'imprinting tra l'altro violentissimo, ecco. Die Form, anzi lo diciamo alla tedesca, perché è quello, gruppo di Monza, quindi non siamo lontanissimi, insomma, sempre nord Italia, sempre in quegli anni lì, diventeranno Tasa Dai, quindi gruppo dell'industrial, anche piuttosto, insomma, di culto, con lavori sul serio eccezionali, tra l'altro passati più volte qua, 451 frammenti sonori. Die Form pubblicano ben poco e hanno questo suono incredibile, tra post-punk, frammenti di new wave e quello, appunto, che poi svilupperanno quel rumorismo che abbiamo sentito anche prima con Tooth Thread, abbiamo ancora in sottofondo, tra l'altro, e diventerà proprio dentro quello che è uno dei punti di riferimento del percorso delle musiche industrial nostrane, italiane, con poi una visione, comunque, come buona parte delle visioni post-punk, allargate, inevitabilmente tali, non potevano che essere quelle, le lunghezze ed onda di wave, appunto, che andavano trasformando in continuazione da Fall Tizit a Flying Lizard ai nostri, insomma, misconosciuti Tooth Thread e di culto di E Form, che appunto andiamo ad ascoltare dalla loro Dimensione Umana con tre estratti. Thank you. Are You Before, di Forma, storica, fantastica formazione, da poco tra l'altro stampato il materiale, quei 40 minuti comunque eccezionali, tra, come dicevo prima, post-punk, suoni che vanno a impattare con l'industrial, situazioni situazionistiche create appunto da da quello che abbiamo sentito prima all'entrata, proprio come state ai vostri posti, non vi succederà nulla, no? Una sorta di linguaggio cinematografico fatto scoppiare, implodere. E passando invece a quello che è agli Stati Uniti, alla New York, Mars insieme a Fon LMO, sentite che diavoleria se ne vengono fuori, appunto, ne vengono fuori e forse ne vengono fuori anche definitivamente, appunto, questi pazzoidi. La nevrosi portata a una sorta di estremo, tanto da creare appunto un muro di suono, no bite, ma con un'attitudine assolutamente post-punk, per come appunto è stata tramandata. Ecco, piccolissimo omaggio a Mark Smith e soprattutto ai suoi anni al post-punk, passando appunto dalla sua Inghilterra al post-punk nostrano e a quello per qualche minuto di Red Transistor. Io vi lascio, ma vi lascio con un Futuri Rumori che torna tra l'altro con Other Nix, Andrea Piran, e probabilmente se col suono non c'entra nulla o quasi nulla con la post-punk, beh, sicuramente qualcosa in termini di attitudine la troviamo anche qua, quella sorta di graffio, così perlomeno in termini appunto di visione musicale, in termini anche dell'utilizzo dell'ambiente per trasformarlo e canalizzarlo in maniera piuttosto propria, originale e anche appunto diretta, perché no, per tanti aspetti, anche un uso se vogliamo graffiante appunto dell'elettronica, poi con momenti più nebbiosi, più sospesi. Vi lascio, vi rimando a tra qualche settimana per i saluti di 451 Frammenti Sonori in compagnia di Max Macchia. Fate i bravi nel frattempo, mi raccomando, non mi fate preoccupare, e vi auguro a tutti una fantastic life. Siamo proprio nel momento giusto e quindi ce la dobbiamo godere, insomma. Fantastic life, ciao.